La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24. Sono le 16:30 primi in questo secondo preciso. Dai suoi di Milano, Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia. Vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it, e il numero di telefono per intervenire: 800 24 00 24. Per le opinioni con gli sms 349 238 6666. Di che cosa parliamo oggi? Degli aggiornamenti sulla delicata situazione dell'immigrazione. Molti quotidiani oggi hanno aperto o comunque hanno il primo sfoglio dedicato al record di sbarchi che, come sapete, ci sta portando a una cifra, anzi ci ha portato già a un aumento del 15% circa rispetto all'andamento dell'anno precedente, quindi siamo a 153.000 a questo punto dell'anno. Anche oggi a 30 miglia circa dalla Libia un gommone con 19 vittime a bordo. Prosegue la missione Sofia. In questa, diciamo, ultima parte che dell'estate, all'inizio dell'autunno, in realtà il canale Mediterraneo si è confermato come quello bloccato, il canale centroeuropeo, per effetto dell'esplosione dei contrasti dopo l'uscita della Merkel nell'estate del 2015, ha visto riattivare il canale Mediterraneo. E per quanto rafforzata sia la missione Sofia, il dispositivo internazionale e così via, l'emergenza resta. È un'emergenza anche al centro del confronto muscolare, molto polemico, tra il Presidente del Consiglio italiano e la Commissione europea in vista della bollinatura, diciamo così, delle richieste che la Commissione europea farà rispetto alla proposta di legge di bilancio per il 2017. Tra le tante cose di cui parleremo, innanzitutto abbiamo con noi il Presidente dell'ANCI oggi per fare un punto con le misure di di coordinamento tra governo e comuni, che il governo ha preso l'impegno 2 settimane fa, già ne parlammo, di potenziare per evitare le polemiche degli interventi tramite prefetti che saltano i comuni e creano un mucchio di problemi aggiuntivi. Parleremo di questo canale aggiuntivo, il corridoio umanitario, i corridoi umanitari per evitare le morti dei migranti, corridoi umanitari che sono organizzati nel nostro paese, anche se riguardano poche centinaia di persone. Ieri sono arrivate 128 persone arrivate a Fiumicino, non riguardano certo i flussi di migliaia e migliaia quotidiani nel Mediterraneo, ma che corrispondono a un tentativo che alcune organizzazioni, la Tavola Valdese, la Federazione delle Chiese Evangeliche, la Comunità di Sant'Egidio, hanno messo in piedi appunto per evitare il fenomeno dei morti. Intanto approda in aula alla Camera il disegno di legge per i minori non accompagnati che vengono nel nostro paese, per dare loro tutela e accoglienza, cioè prevede il divieto di respingimento appunto per i minori non accompagnati e per disciplinare in una maniera organica il percorso successivo al loro ingresso nel nostro paese. Molto probabilmente, sicuramente, molti di voi avete visto quello che nel frattempo era accaduto ieri a Gorino, di fronte all'annuncio dell'arrivo, in realtà, di poco più di 20 di migranti, donne e bambini. Le proteste a cui hanno dato vita i cittadini di Gorino del Ferrarese. E a questo proposito iniziamo con le parole che ha pronunciato questa mattina alla Racchettina il ministro degli Interni Alfano. Di fronte a 12 donne, di cui una incinta, organizzare i blocchi stradali sia un qualcosa che non fa onore al nostro paese. L'Italia non è quella, non è lo specchio dell'Italia, è il segno di un disagio, ma non è lo specchio dell'Italia. Ecco, naturalmente io evito accuratamente di fare qualunque commento, perché mi rendo conto che questa è una materia incandescente, perché la polemica politica è immediatamente rilanciata ieri di fronte a questi fermi stradali, di chi è contrario all'immigrazione, naturalmente innanzitutto la Lega, di chi dice che bisogna porre uno stop, di chi critica frontalmente la posizione del governo come troppo arrendevole e dice anche le polemiche nei confronti dell'Unione Europea perché Renzi ha iniziato a dire l'Unione Europea ci lascia sola, scegliete tra noi e l'Ungheria, sono tardive e non risolutive. Tra l'altro ricordo che c'è anche uno sviluppo ulteriore di rafforzamento della polemica del PD contro l'Europa, perché sabato la manifestazione nazionale convocata a Piazza del Popolo del PD con Renzi a Roma, che era una manifestazione a tutti gli effetti per la campagna referendaria, si è colorata in aggiunta di una fortissima pare cifra di polemica antieuropea proprio sul tema dell'immigrazione. Nel frattempo in Europa, e ho finito, in Francia avete letto, si sta smantellando come lo vogliamo chiamare, il ghetto di Calais, in cui migliaia di immigrati erano lì in baracche, di fronte al fatto che oramai il Regno Unito ha realizzato un muro dall'altra parte, quindi non c'è più possibilità di passare e bisogna smontarlo. In Ungheria, l'anniversario della rivolta ungherese e poi soffocata nel sangue, ve lo ricordate, dall'Armata Rossa sovietica nel 1956, è stato utilizzato dal premier Orbán per una grandissima manifestazione nella quale si è tornati a parlare di immigrazione invece che del ricordo della libertà e della democrazia per i martiri del 1956. E ancora una volta Orbán ha detto si levi chiunque dalla testa in Europa di dettarci la politica della ridistribuzione delle quote. Ecco, questa è la sintesi estrema. Ma approfittiamo del fatto che si è liberato appunto ed è collegato con noi il presidente dell'ANCI, il sindaco di Bari, freschissimo presidente dell'ANCI, appena nominato, succedendo all'ex sindaco di Torino Piero Fassino, e il sindaco di Bari, che io ringrazio di essere con noi, Antonio De Caro. Buon pomeriggio, sindaco. Grazie a voi, buon pomeriggio, anche se il freschissimo stona con la temperatura di Bari oggi, che sono 25 gradi. Qui invece è autunno avanzato. Vabbè. Allora, io le devo fare delle domande in progressione per far capire a chi ci ascolta a che punto sta il maggior coordinamento che qualche settimana fa, incontrando l'ANCI, il governo ha promesso con i sindaci, dicendo bisogna, non dico abbandonare, ma bisogna rimettere in seconda battuta il meccanismo attraverso il quale fino a questo momento, in tutti gli anni alle nostre spalle, ha operato la ridislocazione sul territorio dei profughi e dei migranti, cioè quella delle scelte gestite dai prefetti che comunicavano il numero e che quindi a quel punto lasciavano ai comuni l'identificazione delle strutture, però intanto i prefetti dicevano questo è il numero. Allora, rispetto a quell'incontro di poche settimane fa, che sviluppi concreti ci sono da parte del governo nei vostri confronti? Abbiamo un incontro domani, incontro nel quale discuteremo del tema che abbiamo già affrontato durante la 3 giorni dell'ANCI a Bari, che è la proposta dell'ANCI fatta già qualche mese fa da Piero Fassino. La proposta è di distribuire in maniera equa, la quota dei migranti nelle varie comunità, nei vari comuni, rispettando le quote già stabilite per le regioni. Lo facciamo attraverso il sistema SPRAR, dove sono i comuni, i sindaci in particolare, ad organizzare l'accoglienza, nella speranza di trasformare l'accoglienza in integrazione. Nel senso che quello che è accaduto anche oggi in un comune del nostro paese dipende dal fatto che la comunità non viene preparata, viene fatto un bando da parte della prefettura. Può capitare nell'ambito della provincia dove la prefettura lavora di magari far arrivare 100 migranti in un comune di 500 abitanti. È chiaro che c'è un impatto che può essere un impatto importante. Diverso se lo si fa in maniera equilibrata, utilizzando anche i comuni che attraverso i servizi sociali, attraverso le politiche di integrazione, attraverso, non lo so, anche dei tirocini formativi per quelle comunità che se lo possono permettere, possono davvero trasformare, diciamo, un sistema oggi di emergenza in un sistema più strutturato di accoglienza e di integrazione. Se andiamo a vedere al momento le percentuali, per così dire, di distribuzione, cioè il numero dei comuni che concretamente accolgono i profughi, effettivamente vediamo che siamo molto lontani ancora da una distribuzione, come devo dire, proporzionale o poco meno che proporzionale o poco più che proporzionale, cioè abbiamo un concentramento molto elevato, non solo ovviamente in regioni come la Sicilia, perché è la regione nella quale si riversa il più dei flussi, il primo arrivo, ma anche andando a vedere tra sud e nord, tra le diverse regioni del nord, in particolare il concentramento della Lombardia e così via. Da questo punto di vista, secondo lei, seconda domanda, con gli strumenti aggiuntivi e anche con le disponibilità finanziarie che sono annunciate proprio per i comuni nella legge di stabilità da parte del governo, si parla di 600 milioni in più e i 500 euro a regime per ogni accolto di trasferimenti ai comuni. Questi meccanismi sono adeguati per pensare non solo a una distribuzione proporzionale dei flussi prossimi in arrivo, ma anche di quelli che già ci sono nel nostro paese, secondo lei? Sicuramente l'incentivo dal punto di vista economico può aiutare la redistribuzione sul territorio. L'elemento fondamentale però credo sia la clausola di salvaguardia. Faccio un esempio per entrare nello specifico. Nel mio comune, che è sede di CARA, di CIE, di Commissione Territoriale per l'Ascolto, ci sono circa 2.000 migranti all'interno della struttura del CARA, che ne potrebbe tenere 700. Bene, se la prefettura non fosse illuminata, ecco, nella mia provincia, io rischierei, quando arrivano ulteriori migranti nella provincia di Bari, in Puglia, che vanno distribuiti in provincia, che la prefettura faccia un bando di gara per individuare delle strutture ricettive. Potrebbe capitare che la struttura ricettiva è nel comune di Bari, che ha già una quota decisamente superiore rispetto a tripla. Scusi, no, aspetti, la fermo per far capire meglio a chi è a caso. Quando lei dice potrebbe capitare, significa che in quel caso nei bandi, per come si facevano fino a questo momento, non... Sì, ma la prefettura fa un bando provinciale e decide, ho la necessità di trovare strutture ricettive, ma per non venivano esclusi, ma non venivano esclusi nelle strutture, potevano partecipare quelle in aree territoriali dove la concentrazione era già elevata? Assolutamente no, la prefettura di Bari per fortuna è una prefettura molto attenta a un'indagine sul territorio e verifica quelli che sono i comuni che hanno già presenza di migranti, e quindi tengono fuori, quando fanno il bando di gara, le comunità che hanno già raggiunto il limite previsto dalla norma. Più che dalla norma, la norma prevede una quota regionale e quella quota viene redistribuita sulla base della popolazione nei vari comuni. Se la prefettura non fosse attenta, potrei ritrovare nel mio comune una struttura ricettiva, non so, da 1.000 posti, come accade in molte zone, per esempio dell'Emilia Romagna, dove ci sono molte strutture ricettive che soprattutto nel periodo invernale non lavorano, e potrebbero accogliere ulteriori 1.000 migranti che si aggiungono ai 2.000 che già ci sono. Quindi questo può diventare un problema. Ora, e a quel punto, per come funzionava prima, lei non avrebbe potuto fare nulla di fronte a una gara che si concludeva. Assolutamente nulla. Ripeto, a Bari non sarebbe successo nulla lo stesso, perché ci sono periodi dell'anno in cui ce ne abbiamo anche molti di più. Perché comunque questa è una città accogliente, lo fa da tanto tempo, ho detto più volte che quando il fenomeno della migrazione ha bussato al nostro paese, ha bussato alle porte di Bari, arrivarono 20.000 albanesi con un'unica nave 25 anni fa, però è chiaro che una città può andare in crisi, vanno in crisi i servizi di trasporto, vanno in crisi i servizi sociali, possono esserci dei problemi. Con la clausola di salvaguardia, cioè con la proposta dell'ANCI, chi aderisce allo SPRAR, e quindi in un comune c'è una quota già individuata e il comune si fa carico di gestire questa quota dei migranti, è chiaro che la prefettura deve tirar fuori quel comune come possibile ubicazione di strutture ricettive da mettere a disposizione dei migranti. E questo è il primo elemento. Il secondo elemento che avevamo chiesto era un incentivo, per esempio una deroga al blocco del turnover, perché se accetto di contribuire come comunità all'accoglienza, ho bisogno poi di sostenere questa accoglienza, di trasformarla in integrazione, per esempio assumendo dei assistenti sociali che devono occuparsi esclusivamente di questo tema. Devo dire che quell'incentivo di 500 euro a migranti comunque aiuta i comuni in questo senso. Ho un'altra domanda, e questa non devo raccomandarglielo, perché lei fa l'amministratore e ormai è una persona esperta da questo punto di vista, quindi sa quanto alcune domande tocchino dei nervi scoperti nelle opinioni di chi ci ascolta e di tutti i cittadini, perché come è evidente, molti ci dicono: sì, ci avete spiegato mille volte però che il sistema dello SPRAR è il sistema per i profughi e richiedenti asilo, ma oramai abbiamo imparato proprio dalle vostre trasmissioni che un problema quantitativamente molto rilevante e che è quello che poi genera fenomeni di intolleranza, preoccupazione, sicurezza nei centri delle grandi città, intorno alle stazioni e così via, è quello quantitativamente molto rilevante. Stiamo parlando di una percentuale molto elevata di coloro che si vedono sui 153.000 oltre il 45%. In media si vede rifiutata la richiesta di asilo e a quel punto nel nostro ordinamento, lo ripeto, in quasi tutti i casi scatta un foglio di via che però, per come funziona il nostro ordinamento di fronte poi alle opposizioni e così via, non ha quasi mai seguito e genera fenomeni di decine di migliaia di profughi che si disperdono nel territorio, alcuni tentando di avvicinare parti di frontiera che consentano di proseguire il viaggio verso le loro destinazioni finali altrove in Europa, ma altri che poi si fermano. Ecco, questo punto che è il più delicato, cioè la parte del fenomeno che dopo tutti questi anni, Presidente, purtroppo non essendoci dato un sistema ordinato centro-periferia, questa è la mia opinione, non avendovi coinvolto prima, non abbiamo lasciato purtroppo un po' marcire. E questo fenomeno, nella diversa collaborazione che ci sarà adesso tra autorità centrale, Viminale, autorità dello Stato e terminale dello Stato, prefetture, con l'ANCI, che tipo di risposta si può immaginare che avrà? Allora, io credo che vadano stabilite delle regole. Una parte di queste regole, per fortuna, sono state introdotte, anche un modo di operare diverso rispetto al passato, perché poi anche chi ottiene il permesso di soggiorno, magari quando è arrivato in una città, che sono le città dove più vicine, più prossime alle zone di sbarco, ecco perché le città del sud, in particolare quelle della Sicilia, o le città come la mia o come altre città che ci sono nella mia regione, che sono sede di CARA, sono sede di commissione territoriale per il rilascio del permesso di soggiorno. Prima i tempi per il rilascio del permesso di soggiorno erano lunghissimi, per fortuna adesso si sono strette a 5 mesi, ma fino all'anno scorso si poteva aspettare anche 2 anni per ottenere un permesso di soggiorno, 2 anni e mezzo, e quindi magari anche chi era arrivato in una città solo per ottenere il permesso di soggiorno e poi aveva intenzione di muoversi in altre zone, alla fine diventa stanziale perché si creano relazioni e resta all'interno di quella città senza un lavoro, senza una casa, senza la possibilità di essere integrato. Molti non ottengono il permesso di soggiorno in prima battuta, c'è la possibilità sulla base di Dublino 2 di fare ricorso e fanno il ricorso ovviamente nella stessa sede di commissione territoriale in cui hanno avuto il diniego e quindi restano ancora qui per ulteriori mesi. E poi c'è tutto il tema di chi ottiene il permesso di soggiorno. Chi ottiene il permesso di soggiorno non può essere, diciamo, lasciato nel comune dove rimane, va aiutato, lo Stato deve continuare ad aiutare perché sono cittadini, sono italiani d'adozione e comunque lo Stato deve dare una mano a quelle comunità che hanno adottato queste persone che hanno ottenuto il permesso di soggiorno. Poi si apre tutta la vicenda alla quale giustamente faceva riferimento lei, che è quella del diniego, il secondo diniego del permesso di soggiorno fa scattare il foglio di via, perché se non vengono da paesi nei quali si soffre la fame, la guerra, non sono, diciamo, paesi caratterizzati per ottenere il permesso di soggiorno, è chiaro che bisogna introdurre il sistema per farli tornare a casa, e questo normalmente non accade perché le questure che sono incaricate di questo servizio non hanno nemmeno i fondi per pagare esatto, il biglietto aereo, cioè l'interazione tempi lunghi della magistratura e polizia. Questo sistema è in 3 stadi, adesso siamo al primo sistema SPRAR e io sono molto felice che finalmente il governo abbia capito che deve articolare sul territorio il confronto, le modalità, e poi c'è il secondo, quelli di chi sono nelle more delle richieste di permessi di soggiorno, primo, il secondo, e poi c'è il terzo, quello delle espulsioni. Lo dico, io ringrazio il Presidente Lanci che si è reso disponibile, adesso abbiamo un minuto di informazione amministrazione stradale. Chiunque volesse approfondire sul numero di Economist che esce, lo trovate già online. C'è un lunghissimo servizio dedicato per 4/5 alla situazione italiana, a chi sta sulle navi e salva vite e al come e al perché. Ci sono molti magistrati, molti sindaci che parlano del sud, in particolare in Sicilia, proprio su questo fenomeno della dispersione sul territorio di chi poi sfugge dalle maglie della legalità, che è il problema che resta gravissimo nel nostro paese e che incita il resto dell'Europa a credere che noi lo facciamo colpevolmente. Questo è il punto di fondo dell'incomprensione europea, la fotosegnalazione, ma non solo, perché lì abbiamo fatto passi avanti. Quindi intanto grazie al presidente Lanci, noi torniamo tra un minuto, cari ascoltatori. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta. Lasciatemi dire a questo proposito che c'è una notizia a proposito dell'immigrazione e del ruolo che svolge l'Italia su questo delicatissimo terreno che è umanitario e poi ha impatti politici, economici enormi, che mi ha lasciato veramente senza parole, perché sono i classici paradossi italiani. Questa mattina è apprendere dell'indagine penale aperta a carico del tenente di vascello Katia Pellegrino, ex comandante della nave Libra della Marina Militare, di altri ufficiali della Marina Militare, per il ribaltamento di un barcone avvenuto in acque maltesi nell'ottobre 2013. L'accusa è, non voglio fare polemiche contro i magistrati, i fascicoli a volte bisogna aprire automaticamente, l'accusa è quella di concorso in omicidio colposo e omissione di soccorso. Allora, siamo proprio l'unico paese al mondo, oltre i due Marò, che riservano l'indagine penale per omissione di concorso a chi veste la divisa e salva vite tutti i giorni nel Mediterraneo. Cioè, io veramente mi trema la voce, ma sono le cose che mi indignano come italiano, non so cosa dire, perché io credo che a queste persone dovremmo una gratitudine sconfinata per quello che fanno e per le vite che salvano. Poi i problemi politici come gestirli sono diversi, e invece li indaghiamo per omicidio colposo e per omissione di soccorso. Vabbè, detto questo, ieri mattina 72, oggi altri 56 profughi dalla Siria, arrivati grazie a questi corridoi umanitari, la modalità, diciamo, per salvare vite direttamente, profughi siriani direttamente da il paese in cui da anni noi assistiamo da lontano, ma stiamo parlando di oltre 500.000 di morti, 4.500.000 di profughi. E questi corridoi umanitari sono organizzati, io gli rendo merito, a dire la verità, qualunque cosa voi pensiate politicamente, a questa iniziativa che è organizzata insieme dalla Tavola Valdese, dalle Federazioni delle Chiese Evangeliche e della Comunità di Sant'Egidio. Per farci rapidamente spiegare di che si tratta, abbiamo con noi Paolo Naso, che è appunto il coordinatore del progetto Mediterranean Hope della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. Buon pomeriggio e grazie per quello che fate, oltre che per essere qui, Naso. Buon pomeriggio e grazie a lei. Cosa sono questi corridoi umanitari? Chi sceglie, come, perché? I corridoi umanitari sono previsti dalla normativa vigente, quindi non abbiamo inventato nulla, abbiamo semplicemente cercato di applicare un aspetto fondamentale del trattato di Schengen previsti. Quindi non abbiamo sognato, ma abbiamo semplicemente utilizzato gli strumenti a nostra disposizione per fare che cosa? Per cercare di garantire un passaggio sicuro delle persone in condizioni di vulnerabilità in primo luogo, quindi anziché il barcone abbiamo cercato di offrire una via sicura a chi è stato torturato, perseguitato, che ha bisogno di cure urgenti, donne sole, minori non accompagnati in condizioni di sfruttamento, vittime di tratta e così via. Ma allo stesso tempo noi sottraiamo soldi al traffico organizzato. Esatto. E in terzo luogo dimostriamo all'Europa che è possibile utilizzare gli strumenti d'essere per cercare una politica razionale di condivisione di questo grande tema, che è un tema che riguarda tutta l'Europa e non soltanto l'Italia. E da questo punto di vista sì, certamente c'è l'aspetto umanitario, però io sono molto affezionato anche all'idea che i corridoi umanitari possano essere un messaggio all'Europa. Esattamente. Esattamente, e mi colpisce molto che a farlo sia appunto delle espressioni, per così dire, di fede religiosa. Ecco, mi colpisce molto, perché forse in questo gli stati laici hanno ancora molto, molto, molto, molto da imparare, e la politica, che molte volte sbaglia temi e li cavalca in una maniera che prescinde dalla vita umana. Grazie a Paolo Naso, controllato su Radio 24, appuntamento come Alessandro Milano domani mattina alle 8:20, attenti a noi due.